Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Uno studio condotto in Brasile conferma che i farmaci antipertensivi non favoriscono la diffusione di SARS-CoV-2 nel paziente e che le cure per l'ipertensione non vanno quindi interrotte. A Obiettivo Salute il commento della professoressa Maddalena Lettino, direttore della cardiologia del San Gerardo di Monza. Buongiorno professoressa Lettino. Buongiorno, buongiorno. Io direi che questa è una bella notizia, ed è una bella notizia perché nel momento in cui abbiamo vissuto il disagio dell'infezione e abbiamo saputo qualcosa di più anche sui meccanismi con i quali si poteva pensare che il virus entrasse all'interno delle cellule, ahimè, il fatto che fossero interessati alcuni dei cosiddetti recettori anche per i farmaci antipertensivi aveva generato un certo sconcerto, considerato che i farmaci antipertensivi sono estesamente utilizzati, che spesso sono utilizzati nei pazienti anziani e che moltissimi quindi soggetti potevano essere in terapia. La bella notizia è che a prescindere dall'esistenza o meno della terapia non c'è nessun fattore favorente un peggioramento dell'infezione virale o una maggiore facilità di acquisizione. E questo direi che a prescindere da come andrà ovviamente l'infezione virale nei prossimi mesi è una notizia che sicuramente conforta sia i pazienti che la comunità scientifica degli operatori sanitari. Professoressa Lettino, veniamo alle indicazioni. Come a dire, lo studio insegna che? Io direi che lo studio ci insegna come comportarci nell'immediato, ma ci sollecita sempre a prendere in considerazione quell'aspetto clinico che potrebbe migliorare la salute dei nostri pazienti. Lo studio ci insegna che non c'è nessuna interferenza, ci insegna però anche che la popolazione dei pazienti ipertesi potrebbe essere una popolazione vulnerabile. Bene, cerchiamo di saperlo se siamo o non siamo ipertesi. Aumentiamo i nostri controlli della pressione arteriosa, perché se siamo ipertesi è meglio controllarlo questo fattore di rischio. Indipendentemente dal virus ci espone anche a tante altre complicanze, quindi prima conosciamo la nostra condizione, prima la trattiamo e meglio sarà la prognosi di tutti i nostri soggetti. Bene, per oggi è tutto, vi do appuntamento a domani alle 12 per una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.